Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Omicidio Resinovic, la ricostruzione della procura di Trieste. Liliana è stata uccisa dal marito in via Weiss il giorno della scomparsa. Le reazioni degli avvocati di parte civile. Politica, dopo il vertice che ha riportato il sereno in casa del centrodestra, parlano gli esponenti delle opposizioni. L'informazione come veicolo di speranza, un convegno a Udine organizzato dall'arcidiocesi. Il Giro d'Italia di ciclismo attraversa la regione, nel pomeriggio arriva nella capitale europea della cultura, l'attesa a Gorizia. Nova Gorizia. Valvasone Arzene ospita l'assemblea dei borghi più belli d'Italia, tra i temi le strategie di valorizzazione e salvaguardia. Cantine aperte, un'ottantina alle realtà aderenti in regione. Sport, basket, stasera gara 4 del quarto di finale playoff a Trieste e Brescia, biancorossi tornano al Palarubini dopo la squalifica. Sono le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. È stato il marito Sebastiano Visintin a uccidere la moglie Liliana Resinovic, aggredita e soffocata il giorno stesso della scomparsa, il 14 dicembre 2021, in prossimità del luogo in cui la donna fu poi ritrovata morta 20 giorni più tardi. Lo sostiene la procura di Trieste attraverso la ricostruzione della PM Ilaria Iozzi, contenuta in una richiesta di incidente probatorio depositata qualche giorno fa al giudice per le indagini preliminari. Nel documento si legge che Sebastiano Visintin è indagato per omicidio perché, citiamo, dopo aver aggredito all'interno del parco dell'ex OPP in prossimità della via Weiss, altezza civico 21, la propria moglie con afferramenti, compressioni, percosse, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace e agli arti, ne cagionava la morte avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della donna. Secondo l'accusa, i fatti sono stati commessi il 14 dicembre 2021, dunque il giorno della scomparsa di Liliana Resinovic. Il corpo venne poi ritrovato solo 3 settimane più tardi, il 5 gennaio. L'ipotesi accusatoria è in linea con la perizia dell'antropologa Cristina Cattaneo e degli altri esperti, secondo i quali Liliana non si è suicidata, ma è stata uccisa. Non manifestano sorprese i legali delle parti civili, tra cui Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovic, il fratello di Liliana. Ascoltiamo Gentile. Non credo che ci siano particolari novità, e il fatto che poi nel capo di imputazione vengono dettagliati alcuni possibili comportamenti è un dato assolutamente neutro. Il capo di imputazione allo Stato in un'indagine per omicidio che è partita da poco è qualcosa di provvisorio che può cambiare sempre a seconda dello sviluppo dell'indagine. È una notizia che sinceramente, per quanto ci riguarda, né ci esalta né ci sconforta. È un percorso ordinario in un contesto di presunzione di non colpevolezza del soggetto che è stato iscritto nel registro degli indagati. La richiesta di incidente probatorio riguarda l'acquisizione di testimonianza di Claudio Sterpin, 86enne, amico della vittima, in relazione ai rapporti con Liliana Resinovic, a quelli di lei con il marito e a quelli della coppia con gli amici. Dalla richiesta è evidente anche il volume del fascicolo che riguarda questo caso, quasi 6.000 pagine, comprese foto, perizie e trascrizioni di dichiarazioni, anche quelle precedenti dello stesso Sterpin, e trascrizioni di messaggi telefonici. Sulle implicazioni del documento abbiamo sentito anche Federica Obizzi, avvocata di Veronica Resinovic, nipote della vittima. Non stupisce che ci sia un'ipotesi accusatoria così delineata nei confronti delle Visintin, perché è il risultato delle indagini che sono state anche recentemente effettuate e ovviamente è il presupposto per l'iscrizione nel registro degli indagati. E ora la politica, con le reazioni scettiche delle opposizioni dopo il vertice di ieri a Trieste, che sembra aver sancito la pace tra gli alleati nella maggioranza Fedriga. Molto rumore per nulla, cita Shakespeare il consigliere di Open Sinistra FVG Furio Onsel per commentare il vertice di maggioranza che ha di fatto chiuso la crisi nel centrodestra. Ma l'annuncio da parte del presidente Fedriga di una mozione da discutere in consiglio con il programma da qui a fine legislatura sulla quale chiedere la fiducia suscita reazioni ironiche da tutte le opposizioni. parla di terza puntata di una farsa di Diego Moretti, dopo la sceneggiata della rimissione delle deleghe degli assessori e dopo l'esito della riunione di Roma con Meloni. Secondo il capogruppo PD, Fedrigan esce fortemente indebolito, messo in riga da Meloni, con il terzo mandato ormai sepolto e con Fratelli d'Italia che da oggi in avanti darà le carte. Parla di farsa anche la consigliera Rosaria Capozzi. Prima è stata dichiarata la crisi del governo regionale, scrive l'esponente del Movimento 5 Stelle, e poi alla fine di tutto non si capisce cosa possa aver portato a casa Fedriga, visto che apparentemente non è cambiato nulla. L'esito del vertice di ieri a Trieste viene invece commentato con soddisfazione da Sandra Savino come coordinatrice regionale di Forza Italia. La conferma delle deleghe alla salute all'assessore Riccardi è un riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto fino a qui, spiega la sottosegretaria al MEF a mezzo stampa. Detto ciò, è importante portare avanti un ragionamento complessivo che tenga conto di tutto il territorio. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. A Pordenone si celebrano gli 80 anni della sezione locale udinese di Confartigianato. L'appuntamento è al Teatro Verdi nel pomeriggio alle 17, dove saranno consegnati i riconoscimenti a numerose aziende delle due province. A Udine questa mattina si è tenuto un convegno per promuovere l'informazione come veicolo di speranza, seguendo l'invito di Papa Leone. Lo ha promosso l'arcidiocesi e vi hanno partecipato diversi esperti del mondo della comunicazione. Praticare la comunicazione e l'informazione come veicolo di speranza, disarmando le parole violente e aggressive. È questo il messaggio dell'incontro promosso dall'Arcidiocesi di Udine in vista della 59esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali che la Chiesa celebrerà il prossimo 1 giugno. Un tema ripreso dal messaggio di Papa Francesco pubblicato lo scorso gennaio e ripreso dal nuovo Papa Leone XIV nel suo incontro con la stampa subito dopo la sua elezione. Don Daniele Antonello, direttore della Vita Cattolica e rettore del seminario interdiocesano di Gorizia, Trieste e Udine. Si parla sempre meno di buone notizie, si parla sempre di ciò che non va bene. Ecco, la prospettiva è quella di cambiare, e quindi una dimensione di conversione anche nell'ambiente della comunicazione. Partendo da un confronto ai diversi gruppi per analizzare la propria dieta mediatica, i lavori si sono poi concentrati sulla narrazione della realtà e su alcuni esempi virtuosi, da quello dell'associazione Parole Ostili, che ha presentato la traduzione in friulano del manifesto della comunicazione non ostile, a quello di Progetto Autismo FVG con il suo periodico Cose dall'altro mondo, dedicato a un racconto obiettivo e non paternalistico delle esperienze di chi convive con questa condizione. Elena Bulfone, presidente della fondazione Progetto Autismo FVG. Noi vogliamo dare una visione a 360 gradi, una visione non buonista, una visione non socialmente accettabile, ma una visione chiara, limpida di quelle che sono le difficoltà e i talenti e le possibilità che queste persone hanno. Udine, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Torna la raccolta alimentare promossa dalla Caritas diocesana di Trieste a favore delle numerose famiglie bisognose di sostegno che vivono in città. Una ventina i punti vendita aderenti, soprattutto supermercati, presso i quali per tutta la giornata di oggi possono essere consegnati ai volontari beni di prima necessità, dai prodotti alimentari a quelli per l'igiene. La carovana del Giro d'Italia nel pomeriggio in regione, tra poco da Treviso la partenza della 14ª tappa che attraverserà la pianura friulana e si concluderà tra Gorizia e Nova Gorizia dopo Cormons e il Collio. Clima di grande attesa nella capitale europea della cultura che per un giorno diventa capitale di uno degli sport di maggiore popolarità. Migliaia di tifosi accorsi, la maggior parte dalla Slovenia, pienissimo il treno delle ferrovie slovene arrivato da Ljubljana. Sono qui per Primož Roglič, già vincitore del Giro 2023, in lizza anche per la classifica finale di questa edizione. In maglia rosa al momento c'è il giovanissimo messicano Isaac del Toro, 21 anni. È il grande giorno del Giro transfrontaliero, un omaggio a Go 2025, capitale europea della cultura. L'arrivo della 14ª tappa, Treviso, Gorizia, Nova Gorizia, è previsto intorno alle 17.30, ma le vie goriziane si stanno già riempiendo di spettatori. La giornata è decisamente primaverile, 18 gradi, il cielo è sereno con alcune nubi. Potrebbe esserci qualche scroscio verso le fasi finali. Uno dei passaggi da cartolina della giornata sarà sulle strade del Collio, primo sconfinamento della giornata. Anche lì le strade si stanno riempiendo, passando per San Floriano e Piuma si imboccherà il circuito finale. 13,8 km tra le due città con lo strappo del Saver tra Casa Rossa e il santuario di Costanevizza. Un chilometro con pendenza media del 6,5%. Potrebbe essere il trampolino trampolino di lancio per qualche attacco, altrimenti è attesa la volata. Nelle due città sono già scattate alcune restrizioni al traffico, la partenza da Treviso poco prima delle 13, sorvolo delle frecce tricolori durante le premiazioni e poi concerto dei The Colors a seguire in serata davanti al comune di Nova Gorizia. Gorizia, Andrea Marucic, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12.40, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo sereno su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 18 gradi, a Gorizia 19,5, a Udine 19, a Pordenone 16 gradi e 5 decimi, nell'area montana a Tolmezzo 14,5, a Tarvisio 11,5, a Sappada 10 gradi, sul Piancavallo 7 gradi e 5 decimi, a Forlì di Sopra 12 gradi, in quota sull'Ussari 4,5, sullo Zoncolan 4 gradi, sulla costa a Lignano 18, a Grado 17,5 decimi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per il pomeriggio: cielo poco nuvoloso in pianura e sulla costa, nuvoloso altrove. Possibili rovesci o temporali sparsi sulla zona montana, specie sulla fascia prealpina, che potrebbero in seguito interessare localmente alcune zone in pianura. Prosegue il Festival dell'Acqua di Staranzano, che oggi propone una decina di appuntamenti divulgativi in Sala del Bianco. Da segnalare nel pomeriggio alle 18 l'incontro con Filippo Menga, ricercatore tra i massimi esperti di politica dell'acqua a livello internazionale, che parlerà di sete, crisi idrica e capitalismo in dialogo con Fabiana Martini. Strategie di adattamento nelle aree montane, il convegno organizzato da Legambiente che si è tenuto questa mattina a Tolmezzo al Museo Carnico Gortani, in cui era incluso un breve focus sul turismo invernale. Tra i relatori Federico Cazzorzi, docente di idrologia all'Università di Udine, con cui abbiamo parlato della velocità del cambiamento climatico nei ghiacciai. Noi facciamo ogni anno il bilancio dei principali ghiacciai in Friuli, quello del Montasio è l'unico ghiacciaio vero, ghiacciaio del Friuli rimasto, l'unico con i repacci. Realizziamo rilievi molto accurati della topografia e della superficie di molti ghiacciai di tutto l'arco alpino e per confronto con quella che era quella dell'anno precedente determiniamo quanta massa si è persa nel corso di ciascun anno. E questa perdita di massa è indubbiamente correlata con le variazioni climatiche, visto che è sempre nella stessa direzione, ormai è sempre perdita di massa, tranne qualche rara eccezione, quindi è decisamente correlata con il cambiamento climatico. Quali sono i contraccolpi nell'ambiente di queste variazioni? Nell'ambiente i contraccolpi sono molto evidenti, noi al di là dell'aspetto glaciologico leggiamo quello che sarà una diversa distribuzione delle risorse idriche, piogge più concentrate in momenti di grande intensità e periodi brevi piuttosto che precipitazioni lunghe e ben distribuite. Leggiamo anche variazioni per esempio nella flora che migra verso quote più elevate, verso temperature meno calde, più basse e quindi sul terreno leggiamo moltissime cose. Le ripercussioni che ci saranno sulla nostra vita potranno diventare anzi molto pesanti e molto difficili da sostenere proprio in virtù della rapidità con cui questo sta avvenendo. È in corso la 32esima edizione di Cantine Aperte, la manifestazione organizzata a livello nazionale dal movimento Turismo del Vino. In regione aderiscono un'ottantina di cantine che aprono appunto le porte delle aziende per degustazioni e varie iniziative. Domani la seconda giornata con aperture sempre tra le 10 e le 18. A Valvasone Arzene si svolge l'Assemblea dei Borghi più belli d'Italia, la 25esima. Sono più di 370 i comuni coinvolti che discutono soprattutto di come fidelizzare i visitatori e rafforzare le loro identità di luoghi preziosi che vanno salvaguardate. Custodi di bellezza e laboratori di resistenza, 250 delegati dei borghi più belli d'Italia sono riuniti a Valvasone per la 25esima Assemblea Nazionale della Rete che riunisce 375 comuni italiani, 15 in Friuli Venezia Giulia. Il consigliere regionale e componente del direttivo nazionale Marcus Maurmair. Significa stare all'interno di un'istituzione che rappresenta 1.200.000 abitanti, che promuove l'Italia a livello internazionale, dando il senso di quello che è la bellezza della vita nei piccoli borghi, quindi diventando attrattivi per quel turismo lento che piace sempre di più ai turisti che vengono da tutto il mondo. Grandi successi, 23 milioni di pernottamenti nel 2023, ma anche grandi sfide, la principale, lo spopolamento. il presidente della rete I Borghi Più Belli d'Italia, Fiorello Primi. È una questione che noi stiamo sottoponendo sia ai governi regionali che nazionali perché impostino una strategia a medio e lungo termine per affrontare queste questioni che sono legate alla mancanza di servizi essenziali nei borghi che via via si stanno perdendo, quindi servizi sanitari, scolastici, banche, uffici postali e quant'altro, ma soprattutto permettere alla gente che vi abita di raggiungerli facilmente, di avere la possibilità di fruirne facilmente e anche impostare un ragionamento sulla creazione, la possibilità di creare nuovi posti di lavoro per i giovani utilizzando anche le nuove tecnologie. Dall'Assemblea la proposta al Comitato delle Regioni e al Governo nazionale dell'istituzione di un tavolo permanente sul tema. Valvasone Arzene, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura e degli spettacoli questa sera alle 20.45, Cinema Zero di Pordenone ospita la proiezione di Jen Underscore, il nuovo film del regista Gianluca Mattarrese. Sarà presente in sala il dottor Maurizio Bini, protagonista del documentario che introdurrà il film con un intervento speciale. Jen Underscore documenta il lavoro quotidiano del dottor Bini e del suo team all'interno del grande ospedale pubblico Niguarda di Milano tra due ambiti delicati e cruciali: la procreazione medicalmente assistita e le terapie per l'affermazione di genere. Il film racconta una medicina che va oltre la diagnosi, costruendo uno spazio di ascolto, accoglienza e autodeterminazione. La musica a Trieste suona stasera la Ceman Orchestra e Ensemble, che riunisce 30 giovani musicisti del centro Europa al ridotto del Teatro Verdi. Alle 20.45 il debutto del tour Adrian Mozart con la direzione di Biljan Radovanic e Brkanovic. Grande jazz a Gorizia, al centro Bratus suona alle 20.30 il Sunna Gunnlaugs Trio, la più acclamata formazione islandese. A Magnago proseguono le iniziative per celebrare i 25 anni dalla riapertura del Teatro Verdi. Questa sera alle 20.45 lo spettacolo Aires Angre, flamenco e tango con Nina Busatto e Giorgia Redi. A 5 anni dalla scomparsa e a 95 dalla nascita del pianista triestino Livio Cecchelin, lo racconta un libro appena pubblicato da Nadia Pastorcic per l'editore Luglio. Si intitola Livio Cecchelin, una vita al pianoforte, e sarà presentato a Trieste alle 18 nella saletta dell'editore in galleria Rossoni. A dialogare con l'autrice sarà Claudio Cecchelin. Josephine Baker, Gilbert Bécaud, Jacques Brel sono solo alcuni dei nomi con i quali Livio Cecchelin si ritrovò a condividere il palcoscenico negli anni 60. Passiamo allo sport con il basket. Trieste-Brescia, gara 4 dei playoff stasera al Palarubini. Perso il terzo match sul campo di Treviso, casalingo per modo di dire, dopo la squalifica di Valmaura. I biancorossi di Cristian hanno la possibilità di impattare la serie prima di andare a giocare la gara decisiva sul campo dei Lombardi. Tra staff e tifosi c'è la consapevolezza che potrebbe essere l'ultima partita della stagione al Pala Trieste, ma allo stesso tempo c'è la speranza di un'impresa che porti alla semifinale contro Trapani, già qualificata dopo il 3-0 su Reggio Emilia. Trieste-Brescia comincerà alle 20.45, oltre 5.200 i biglietti già venduti. Eventuale gara 5 in programma lunedì 26. Pattinaggio artistico a rotelle, medaglia di bronzo per il gruppo Evolution della polisportiva Orgnano di Basiliano ai campionati europei a Saragozza in Spagna. I Gargoyle e la coreografia firmata dall'ex campione del mondo Sandro Guerra hanno portato appunto a questo podio. Solo un mese fa era arrivato l'oro ai campionati italiani, a ottobre l'appuntamento con i mondiali a Pechino. Pallanuoto, Trieste in corsa per il terzo posto nel massimo campionato femminile. Per le orchette stasera la gara 1 della finale di consolazione contro il Rapallo, che ha il vantaggio del fattore campo. Si gioca nella piscina Ligure alle 20.30, gara 2 in programma mercoledì alla piscina Bianca di Trieste con inizio alle 20. Non perdete domani l'appuntamento con le nostre rubriche. Si comincia poco dopo le 6 su Radio 1 con Est-Ovest, la vetrina della TGR sui Balcani e sull'Est Europa. Sentiamo quali sono gli argomenti in scaletta per questa puntata. Aspettando una tregua in Ucraina, la Lituania addestra fucilieri volontari per affrontare un'eventuale invasione russa. In Slovacchia il premier Fico ha riformato la giustizia cancellando istituzioni preposte alla lotta contro la corruzione. In Serbia cresce il movimento contro l'apertura di una miniera di litio nella valle dello Jadar, gestita dalla multinazionale Rio Tinto. In Kosovo, anche grazie alla cooperazione italiana, è stata aperta la Via Dinarica, un percorso per scoprire le bellezze naturali dell'area. A Varsavia, il nuovo Museo di Arte Moderna in pochi mesi è diventato uno dei centri più importanti del confronto artistico in Polonia. Tutto questo nell'ultima puntata della stagione di Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E alle 8:50, domani, subito dopo la prima edizione del giornale radio regionale, andrà in onda Vita nei Campi. Ecco la scaletta in questa presentazione. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura il punto sull'olivicoltura in regione in occasione di Olio e dintorni. A seguire ancora odori e profumi della casa contadina nella storia di Angelo Floramo, che ci parla della lisciva, un dibattito che anima gli agricoltori per l'affinamento del terreno, meglio i dischi o i denti. E ancora saggio radiofonico per il Traminer aromatico, uno dei vini più antichi della regione. Tecnologie in cucina con il rifrattometro, utilissimo nella preparazione giuste marmellate. Nello spazio dei fiori, tra le regine del caldo e dell'estate, c'è il Calilophus, che presentiamo nella rubrica dei fiori. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12:51:30, prossima edizione oggi alle 14:30. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.